non dovete seguire il pifferaio, sa cantare ma è un inganno. Lui è bello e prepotente, lui è tutto quello che vorresti, ma attenzione, lui è solamente un grosso inganno. Come furbo il pifferaio, con un sorriso lui ci ha rubato, ha suonato a tutta la gente e nel paese si parla di lui. E ha montato, sì, tutta la mente con un grosso inganno. Hey! Tu capita il pifferaio, hey! Lui è un uomo intelligente, sa suonare il suo strumento, sa bussare alle tue porte ed entrare in tutte le case. Dovete seguire il pifferaio, sa cantare ma è un inganno. Lui è bello e prepotente, lui è tutto quello che vorresti, ma attenzione, lui è solamente un grosso inganno. Non capita il pifferaio, lui è un uomo intelligente, suonare il suo strumento, sa bussare alle tue porte.